sicure che siete su Radio Samarcanda, praticamente io sono Enrico Di Troia, ben trovati, buon 2026. Ah, che roba, che senso, sì, insomma. Siamo qui per ascoltare un po' di musica insieme, insieme è la parola giusta, perché... Come sapete io non preparo mai le scalette. Non preparo mai le scalette perché improvviso, cioè mi faccio ispirare da della musica che trovo sui social o su qualche hard disk che mi porto. Poi naturalmente c'è l'handicap di non avere le copertine dei dischi, di non avere poi i nomi dei musicisti che suonano. Però questa è una cosa alla quale si può tranquillamente ovviare, perché uno va a cercare con un altro dispositivo elettronico altre pagine su internet e in qualche modo riesce a trovare anche la possibilità, come avere una copertina di un disco in mano e riuscire a dare agli ascoltatori la possibilità di sapere chi è che suona e quindi in qualche modo di costruire una forma di cultura attraverso la musica. Io, come sapete, credo che la musica possa smuovere veramente tante cose nell'animo umano, tante cose nella vita, tante cose nel mondo, per cui è un po' una forma di resistenza, una forma di lotta, una forma di piacere, una forma che mi fa star bene, e se mi farà star bene, di sicuro farà star bene anche voi. Allora, ho trovato, stavo dicendo questa sera, ma probabilmente ora quando mi ascoltate sarà mattina o probabilmente notte fonda, questo chi può dirlo? Questo accade perché le radio che si possono ascoltare in tutto il mondo magari vanno in onda in un certo orario nel proprio emisfero e invece nell'altro emisfero possono essere ascoltate da persone che, essendo musica internazionale, naturalmente non ha problemi di lingua. Chiedo scusa, ho sbattuto sul microfono perché sto cercando di accecare un moschino. Vabbè. Non si può stare mai tranquilli, mai tranquilli. Benvenuti su Radio Samarcanda. Sempre sul batterista. In questo caso, in maniera del tutto personale, e bisogna aspettare l'assolo del batterista, so chi è il batterista, appunto conosco il nome del batterista, anche del trombettista. Il trombettista è Chet Baker, il pezzo l'abbiamo usato per... ma ne ascolteremo un altro. Il batterista è Eddie Gladden, un batterista che ha suonato molto anche con Dexter Gordon. Il pezzo che ho usato per l'introduzione, per salutarvi e per accogliervi in questa stanza del nonno, che è stato un programma che è stato lanciato da Radio Centro Idea, ma adesso siamo Radio Samarcanda. Io sono Edith, questo era Rise Idea e il brano che stiamo ascoltando invece si chiama Girl with the Purple Eyes, la ragazza dagli occhi di porpora. Interessante. Non ho detto che al piano c'è Kirk Lightsey, grandissimo pianista. Parlo piano per non farmi sentire dai musicisti, se non dicono che parlo sulla musica. Thank you. David Eubank al basso, Eubanks al contrabbasso, Eddie Glanded nella batteria, Chet Baker alla tromba e il grande Kick Lazy al piano, da un album che si chiama Everything Happens to Me. Una canzone che Chet Baker amava cantare. Per chi non lo conoscesse, Chet Baker è stato un musicista che ha trascorso tantissimo tempo in Italia, ha girato anche qualche film negli anni 60. Vi consiglio di andare a cercare qualche cenno biografico della vita di questo artista. Oltre a suonare la tromba, amava tantissimo cantare perché qualcuno gli aveva rotto tutti i denti davanti, quindi suonare certe volte diventava complesso anche coprire una serata. Infatti ho una registrazione di una serata dal quale ascolteremo qualche cosa in cui era particolarmente stanco. Dicevamo di Everything Happens to Me, un brano che lui ama cantare, e io ve lo faccio ascoltare perché mi sembra che questo trio sia particolarmente straordinario. I make a day for gold. You can bet your life it rains. I try to throw a party and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps, and every time I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything to me. At first I thought that you could end this jinx for me. That love could turn the train in despair. But now I've only got this heart that thinks for me. I've mortgaged all my castles in the air. I've telegraphed and phoned, send an airmail special to her. Answer was goodbye. There was even postage due. I fell in love just once, and it had to be with you. Everything happens to me. E In pratica noi siamo una dub radio che può essere ascoltata anche sul web, ma non siamo una web radio, però insomma in qualche modo possiamo essere ascoltati in tutto il mondo. Se fosse vivo ancora, Kirk Lightsey mi darebbe una bacchettata sulle dita. Un omone grande, simpatico, sentite come suona. Thank you. first I thought that you could end this jinx for me. That love could turn the trick to end despair. But now I've only got this heart that takes for me. I've mortgaged all my castles in the air. I've telegraphed and phoned, sent an airmail special to your answer was goodbye. There was even postage due. I fell in love just once, and it had to be with you. Everything happens to me. Chet Baker, credo che sia dal vivo questa registrazione. Kirk Lightsey al piano, David Eubanks al basso e Eddie Gladden alla batteria. Il brano si chiamava Everything Happens to Me. Siamo ancora in compagnia di questo gruppo straordinario. Kirk Lightsey, Eddie Gladden alla batteria, Kirk Lightsey al piano e Chet Baker. Dunque, volevo dirvi che qualche tempo fa, questo è un disco del 1989, nel 1987 andai a sentire Chet Baker in un locale romano e mi portai il mio fedele registratore. Diciamo che per tutta la serata, per tutta la prima parte della serata, Kirk Lightsey era attorniato da altri due musicisti, Arthur Blake al contrabbasso, sempre Eddie Gladden alla batteria, ma c'era anche Jerry Garcia che suonava sia la tromba che le congas. E Jerry Garcia ha suonato per tutto il tempo con un suono, diciamo che a un avventore, a un ascoltatore non troppo esperto, poteva far sembrare essere Chet Baker. Chet Baker era nei camerini, pare che fosse così, molto stanco, avevano suonato all'università, avevano fatto già un set, suonò molto poco in realtà. Però nel momento in cui Chet Baker arrivò, si sedette davanti ai microfoni, ero riuscito a trovare un tavolo praticamente quasi in prima fila. Dietro di me c'erano Renzo Arbore, Gigi Telesforo e un po' di loro amici, abbastanza vocianti per la verità. Credevo che il locale fosse un pochino più attento alla musica, ma già insomma a quell'epoca c'era un discreto chiacchiericcio. E dicevo, Chet Baker si siede davanti ai microfoni, un attimo di silenzio per accordarsi su quale brano avrebbero cominciato a suonare e comincia a suonare un brano molto bello che si chiama Zingaro, e questa è la registrazione che io ho fatto quel giorno. Vediamo, provo a farvela ascoltare. Thank you. Tocco dolcissimo del pianista Kirk Lightsey. Arthur Blake al basso. Eddie Gladden alla batteria. Registrazione effettuata da me nel 1987, il 10 aprile, in un locale romano. Pare che sia una registrazione piuttosto rara. Musicisti pazzeschi, straordinari, Kirk Lightsey, Chet Baker, Arthur Blade al basso e Eddie Glader alla batteria, con Jerry Gonzalez che suona le congas e anche la tromba. Forse qui nel brano che segue, che dovrebbe essere un brano di Miles, che si chiama appunto Miles, forse qui si sente anche Jerry Garcia con la sordina che suona qualcosa dietro Chet Baker. Ho fatto partire il mio registratore. Ogni tanto avevo qualche problema di volumi, ma insomma, mi sembra che sia una buona registrazione. Un bel documento. Ci siamo chiesti se Chet Baker avesse qualche problema, perché si è interrotto, no? Come ti ha sentito, ma poi riprende. Prontissimo a coprire il momento di stanchezza di Chet. Ecco Jerry Garcia che prende le congas. Arthur Blake che canticchia mentre suona il contrabbasso. Aspettiamo che Chet riprenda a suonare, Chet Baker. Thank you. stiamo ascoltando la solo di Arthur Blake in una registrazione piuttosto rara effettuata da me quasi una ventina d'anni fa, se il calcolo non mi è uscito male, 1987-2026, credo che siano passati un po' di anni. Ecco, Jerry Garcia è un altro musicista del gruppo dei Grateful Dead. Jerry Gonzalez che prende la sua tromba dietro Chet Baker. Jerry Gonzalez e Chet Baker alle trombe, Kirk Lysy al piano, Arthur Blake al basso, Eddie Gladden alla batteria. Una registrazione che penso che sia la prima volta in assoluto, una prima mondiale questa qui, è la prima volta che viene irradiata, è una registrazione che ho conservato gelosamente nel tentativo forse un giorno di realizzarne un disco e far arrivare le royalty ai musicisti, ma insomma questa cosa ancora non mi è riuscita. La registrazione è stata riversata in digitale dalle cassette da cui le avevo registrate, quindi ci sono un po' di cose da correggere, ma penso che sia una registrazione di questo gruppo straordinario che possa essere veramente molto bella e interessante per tutti gli appassionati di jazz. Bene, questo brano che sta per iniziare è l'ultimo brano che Chet Baker ha suonato un po' nella prima parte di questo brano qui e poi dopo ha smesso di suonare perché era evidentemente molto stanco. Bene, non lasciamo completamente questo gruppo, ma nel senso ne rincontriamo tre elementi insieme in un disco, il disco che ascoltavamo prima che si chiama Everything Happens to Me. C'è Kirk Lightsey, c'è al piano, c'è Chet Baker alla tromba, Eddie Gladden alla batteria e un altro contrabbassista che vi ho annunciato prima. Il brano che ascoltiamo da questo gruppetto si chiama Fi Fi Fo Fom. Questa è Radio Samarcanda, io sono Enrico Di Troia, edit. Ormai siete in molti ad esservi affezionati a questa radio. C'è anche un gruppo ECM sul web che è stato così. Abbiamo comunicato che esiste questa radio e l'idea gli è piaciuta. Ascolterete anche molti dischi dell'ECM dai miei programmi. In questo caso siamo insieme a Kirk Lightsey, Chet Baker, Eddie Gladden. Anche questo altro bassista, di cui non mi sovviene il nome ma devo andarlo a ritrovare nei credits, ama canticchiare mentre suona, come sentite. Si chiama David Eubank. Anzi, per l'esattezza, David Eubanks. Anche qui Chet Baker evidentemente si è stancato e quindi c'è solo il trio a suonare, e cioè Kirk Lightsey al piano, David Eubanks al basso e questo era Eddie Gladden alla batteria, musicista che ha suonato molto spesso con Dexter Gordon. Straordinari. E adesso lentamente lasciamo questo gruppo di musicisti e ne andiamo a scoprire un altro, un trio abbastanza particolare. Thank you. Ho lasciato il tempo agli appassionati di jazz per cercare di indovinare chi fossero i musicisti che formano questo trio. Qualcuno ha detto nella copertina di questo disco che più che un trio è questo qui, è un triumvirato. Ebbene, si tratta di Duke Ellington al piano, Chas Mingus al contrabbasso e Max Roach alla batteria. L'idea di portare in studio Duke Ellington, Chas Mingus e Max Roach è di per sé qualcosa di inaudito, e non solo perché si tratta di un trio di all stars dall'illimitata forza espressiva, ma anche perché i musicisti in questione sono, almeno in apparenza, incompatibili. Da una parte c'è il più classico Duke Ellington, no? Sentiamo il suo pianismo, e dall'altra due tra le figure più rivoluzionarie del tempo, Mingus e Roach. Money Jungle, così si chiama il brano che stiamo riascoltando in sottofondo e che dà il titolo all'album, viene registrato per la United Artists nel 1962, il 17 settembre esattamente. È bello perché i dischi di jazz hanno, no, tutte queste collocazioni, il giorno della registrazione, chi c'era, chi non c'era, che cosa è accaduto anche durante la registrazione. E questo fu registrato in un solo giorno, in occasione del 63° compleanno di Duke Ellington. Ed è la testimonianza del fatto che il pianista non aveva alcun limite artistico e la sua originalità sonora, infatti, lo ha reso uno dei più grandi pianisti, compositori, arrangiatori e band leader del Novecento. La session, o session come si dice, discografica, è stata piuttosto turbolenta, perché fu interrotta più volte a causa delle incomprensioni che nascevano tra Mingus e Roach. Però è stata portata a compimento con fatica e solo grazie alla diplomazia di Ellington, perché a un certo punto Duke Ellington, Charles Mingus, che aveva suonato con Max Roach, qualcuno se lo ricorderà, nel grande concerto della Massey Hall, dove forse possiamo riascoltare un brano, quello con Charlie Parker. E si erano già incontrati, però evidentemente nel tempo le loro strade si erano così abbastanza divise, erano stati tutti e due dei band leader, no? E quindi a un certo punto Charlie Mingus ha detto: guarda Duke, io esco dallo studio, basta, me ne vado, non voglio suonare con quel batterista. Quindi adesso vado a cercare il pezzettino in cui viene raccontata molto bene dalle note di copertina, e intanto noi ci andiamo ad ascoltare un brano che si chiama Floret Africaine, sempre da questo straordinario triumvirato. Max Roach, Charlie Mingus e Duke Ellington. Thank you. L'anima candida di Ellington, il suo carisma e l'alta considerazione che Max Roach e Charles Mingus hanno verso la sua vicenda musicale e artistica non basteranno a far sì che in questa registrazione tutto scorra nel migliore dei modi. Il pianista aveva sottovalutato un aspetto non secondario. Mingus e Roach avevano maturato uno stile e un linguaggio apparentemente inconciliabili, nonostante avessero, come ho detto prima, condiviso esperienze importanti come il celebre concerto alla Massey Hall di Toronto il 15 maggio del 1953, con Charlie Parker al sax contralto, Dizzy Gillespie alla tromba e Bud Powell al piano. Quindi, per portare a termine la session, Duke Ellington è costretto a ricorrere a un lavoro di grande diplomazia, soprattutto nei confronti di Mingus, che durante la registrazione interrompe bruscamente la session ed esce dallo studio di registrazione. È Duke Ellington stesso a raccontarci l'episodio. E dice: a metà della session ci fu una scenetta divertente. Mingus cominciò a riporre il suo contrabbasso. Gli chiedeci cosa era successo, dove credeva di andare. Non posso suonare con quel batterista, disse. E perché? Cosa c'è che non va? Duke, ho sempre amato te e la tua musica, ma mi devi trovare un altro bassista. Ti devi trovare un altro bassista. Insomma, finì di riporre il contrabbasso e si avviò all'ascensore. Gli andai dietro e dopo averlo sentito borbottare un altro po', quando era già in ascensore con il dito sul pulsante, gli dissi molto lentamente: Mingus, amico mio, la United Artists ti ha regalato una pubblicità a tutta pagina sul Billboard di Natale. Sì, lo so. Sai, continuai, se la Columbia Records avesse speso tutti quei soldi per promuovere me, oggi sarei ancora con loro. Un discorso che convinse Charlie Mingus a riprendere il basso, tornare in studio, e registrammo in scioltezza da lì in poi fino al completamento dell'album. Quindi Money Jungle appare un album dissacrante fin dal titolo, mettere in relazione la musica di tre afroamericani profondamente impegnati nella rivendicazione dei diritti della comunità nera con il termine giungla significa possedere una buona dose di ironia. E probabilmente Duke Ellington voleva fissare il ricordo di quanto avvenuto con Charles Mingus. Il termine money, denaro, potrebbe infatti alludere al fatto che il contrabbassista si lasciò convincere a proseguire la session nonostante le incomprensioni con Max Roach, con la riflessione che l'ingaggio della United Artists era molto sostanzioso in termini economici. Di sicuro è stata una delle poche e rare occasioni in cui il pianista si è misurato in trio, trasferendo in questo lavoro la sua abilità nel dirigere una big band, nell'arrangiare le partiture, nel gestire al meglio le potenzialità dei suoi sidemen, come solo i grandi maestri sanno fare. Alan Douglas della United Artists organizzò una seduta di registrazione nella quale dovevo suonare con due ottimi musicisti, due uomini ricchi di immaginazione, le cui personalità erano distanti tra loro come il Polo Nord dal Polo Sud, ma alla fine, per fortuna, i due poli riuscirono a comunicare. Andiamo ad ascoltare un brano, con attenzione, senza le mie parole. Il brano si chiama Warm Wally. Thank you. questo bellissimo album che si chiama Money Jar si chiude con la rilettura di due tra le partiture più famose di Duke Ellington, Caravan e Solitude. Caravan è una composizione dalla struttura AABA, ma le sue sezioni durano 16 misure anziché le convenzionali 8. In questa interpretazione Ellington è molto aggressivo sulla tastiera del pianoforte, tanto che il primo accordo sembra avere una violenza e una forza primordiali. Ellington suona il tema del brano nel registro più basso del suo strumento per caricare l'effetto afro, e il suo assolo è di sorprendente bellezza, tutto giocato sugli spostamenti ritmici e sui richiami melodici del tema stesso. L'energia dell'esecuzione è devastante, così come brillante è l'arrangiamento della coda ed eccellente è l'accompagnamento tematico di Mingus al contrabbasso. Andiamo ad ascoltare Caravan. Vi ricordo solo che i musicisti sono Duke Ellington al pianoforte, Chas Mingus al contrabbasso e Max Roach alla batteria. Thank you. straordinaria registrazione, Money Jungle, un disco da riscoprire che potrete andare a comprare se volete, o a trovare, insomma si trova molto facilmente, credo. È una registrazione che vi farà piacere mettere sul giradischi o sul compact disc. Allora, cambiamo completamente atmosfera, ritroviamo ancora Duke Ellington, il Duca, insieme a un conte, a Count Basie. Quindi le due big band di Duke Ellington e di Count Basie si fronteggiano in una, diciamo così, come possiamo chiamarla, in una specie di battaglia reale. Sentite i due al pianoforte, uno sul canale e l'altro sull'altro canale, quindi Duke e Count al pianoforte, Cat Anderson e Willie Cook, Rain Answer. Lou Blackburn al trombone, Lawrence Brown, Harry Cocker, Quentin Jackson. Le due big band si fronteggiano in un duello. Johnny Hodges al sax alto, due batteristi, Sam Woodyard e Sonny Payne. Che vi devo dire, io vado pazzo per queste cose. Dicono che nella versione stereo, quella che abbiamo ascoltato, l'orchestra di Count Basie è sul canale sinistro e quella di Duke Ellington era sul canale destro. L'orchestra di Count Basie in un classico, April in Paris, Radio Samarcanda. One more time. One more once. Simpatico Count Basie, non finiva più. Voltiamo ancora pagina. Un re dell'organo Hammond, Jimmy Smith, da un album celeberrimo, si chiama The Cat. Thank you. volta è stato saccheggiato questo pezzettino per fare delle sigle. Jimmy Smith, un grande dell'organo Hammond. E adesso un'altra canzoncina, un altro brano molto frequentato, Lullaby of Birdland. Lullaby of Birdland, questo è il tema più o meno. L'ho beccato male, eh? George Shearing. Gruppetti più famosi del pianeta. È un insieme tra piano, vibrafono, chitarra elettrica, basso e batteria. Sentirlo suonare da Charlie Parker. Lasciamo l'orchestrina di George Shearing e sentiamo Stanley Turrentine che cosa ha messo su. Il brano si chiama Blue Reef. Leggo che Alfred Lion è il produttore, quindi sicuramente un brano registrato per la Blue Note. We'll be right back. sax tenore di Stanley Tarrantine, molto parkeriano, è accompagnato da Gene Harris al piano, Andrew Simpkins al basso e Bill Dowdy alla batteria. Stanley Tarrantine al sax. E adesso si sta preparando di nuovo la big band di Duke Ellington, che ci farà ascoltare un brano dal titolo quantomeno curioso. Infatti si tratta di un disco un po' particolare. Il brano si chiama O Klupaka, non so se è stato letto bene. È un album che si chiama Latin America Suite. Thank you. potrebbe essere ancora Johnny Hodges al sax alto, oppure Paul Gonsalves al tenore. Puntata abbastanza particolare questa, in cui abbiamo ascoltato, siamo partiti da Chet Baker, abbiamo ascoltato una rarissima registrazione dal vivo da me effettuata qualche decennio fa in un club romano, e poi da Chet Baker piano piano ci siamo spostati su l'esperienza particolare del trio di Duke Ellington insieme a Max Roach e a Charles Mingus. E adesso stiamo spaziando un po', cercando di farci influenzare dal sound che abbiamo ascoltato per tutta la puntata, e nella parte finale ascolteremo ancora delle splendide orchestre. Quella che segue è quella di Billy Strayhorn, che suona un pezzo famosissimo. Bellissima versione di Billy Strayhorn con a chiappa il treno A, Take the A Train. Quando si incontrano questi grandi è difficile abbandonarli, ma io non ci penso nemmeno, io sono appassionatissimo di questo tipo di sound. E ancora l'orchestra di Count Basie. che suona la musica di Benny Carter. Yeah. C'è un ramble in sottofondo, sentite? Il brano si chiama Vine Street Rambles. Secondo me, attualmente non c'è alcuna radio che propone questa musica. Se c'è, fatemelo sapere, vi prego. Dall'altra parte del mondo, di sicuro, ce ne sono parecchie. Quello che manca è ancora un pubblico che si ritrova insieme all'ascolto, perché lo stare insieme è importante, come stare in una big band, come suonare insieme in un gruppo. Anche ascoltare la radio insieme con un gruppo di persone che si danno appuntamento per un programma come questo è una cosa rara, è una cosa di cui io personalmente sento un gran bisogno. Ah, che meraviglia! Stupendi. Quanto si divertono, che lavoro che c'è dietro. E adesso sta arrivando un grande, uno dei miei preferiti, Charlie Parker. Il brano si chiama My Little Swedish Shoes. Thank you. Charlie Parker e la sua orchestra con My Little Swedish Shoes. Ah, brano per finire? A Foggy Day. Red Garland. Red Garland in trio. Per una splendida A Foggy Day. Bene, io vi ringrazio. È stata proprio una bella puntata questa. Mi è piaciuta tantissimo. Ogni volta che andrà in onda starò lì a riascoltarla, perché veramente è stata qualcosa di speciale, ma non grazie a me, grazie ai musicisti che hanno partecipato. Sentite che musicisti. Cioè, questa è musica. La chiamano musica improvvisata, ma insomma. È la gioia di stare insieme, il jazz. Di incontrarsi e di misurarsi e di giocare. Anche la radio per me è un po' un misurarsi, un giocare, fare sempre un programma più bello. Questo era veramente bello. Eh sì, e beh. Io adesso vi lascio ancora un po' di minuti con questi musicisti. Magari vado a cercare chi suona nel brano. Canzone famosissima, Foggy Day, composta da George Gershwin, e credo che Red Garland suoni il basso. Originariamente era stata intitolata A Foggy Day in London Town. Forse c'era Fred Astaire intorno a questo pezzo. Dire che vi ringrazio ancora. Mi spiace di dover salutarvi proprio su questa musica, ma almeno due saluti ve li devo fare. Ci rivediamo presto? Sì? D'accordo. Cercherò di preparare qualcosa di molto interessante. Da Edith, ciao, ciao, e rimanete su Radio Samarcanda.